Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Sono le 8:18 e ci siamo, caro In Oscar. Questo 17 di maggio, carissimo Alessandro, San Pasquale Bailon, che non era solo per la rima della vecchia canzone, è veramente protettore delle donne, ma è protettore delle nubili, è un santo controformista. Poi Santa Restituta, che è la santa cara a Fassina, perché gli è stata restituta appunto la candidatura a Milano dal Consiglio di Stato. A Roma. Sì, esatto. E poi altri santi come Sant'Emiliano da Vercelli, Sant'Adrione, Sant'Eraclio, San Vittore. Bisognerà vedere a quale di questi santi si appellerà il cardinale Domenico Calcagno, indagato per malversazione. Lo sapevo, perché ha trasformato l'istituto diocesano di Savona, quando lui era arcivescovo a Savona, in un'agenzia immobiliare speculativa. Quindi bisognerà che preghi qualche santo proprio nel giorno in cui il Papa ha detto che vuole i preti scalzi. Ma apposta io lo cito, perché siccome pensava a casi come questo del cardinale Domenico Calcagno, capito, che il sogno lo mando in bagno. Beh, detto questo, allora, che cosa succede in questo giorno anni fa? Nel 1981 gli italiani confermano la legge sull'aborto con referendum. Nel 1990 l'Organizzazione Mondiale della Sanità leva l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali. Infatti oggi è la giornata internazionale contro l'omofobia, contro l'ipertensione arteriosa, e quindi ci riflettano gli italiani, va bene. Allora, cari italiani, tra l'altro nel giorno in cui abbiamo scherzato, non si voterà più su due giorni ma su un giorno, ma credo che gli italiani... Giustamente qualcuno mi ha detto, ma sono in Italia queste polemiche? C'erano le polemiche se si andava su due giorni, adesso ci saranno le polemiche perché si sta solo su un giorno. Col governo Letta si è trovato un giorno per risparmiare, secondo me è comprensibile. Renzi aveva stabilito un giorno perché, come testimoniano alcuni giornali tipo La Stampa, hanno fatto il conto, e ieri Sala pare che abbia telefonato al Presidente del Consiglio, candidato a Milano, e dice, oh, che fai? Vuoi tornare a due? E diamo una mano al centrodestra, quindi si votava un giorno con l'idea di avvantaggiare la sinistra, poi l'idea, ma come, perdiamo il referendum, andiamo sotto, allora due giorni, invece tornano un giorno. Come si vede, interessi generali, non è l'interesse di parte. Proprio. Alla fine devo dire, quello che fa sempre la figura un po' così è Alfano, che il giorno prima, la domenica, aveva detto stiamo valutando due giorni, e il giorno dopo viene smentito. In ogni compagnia... È il ministro dell'interno, cioè il ministro di successo, c'è quella che si chiama la spalla, il Brutus, quello che prende gli schiaffi, e Alfano adempie perfettamente a questo. Non so se ti ricordi quando eravamo piccoli, c'erano i Brutus. Sì, certo, è l'immagine, cioè pensare Alfano in questa... questa faccia un po' anche, no? Almeno un pochino. Guarda che quello è un elemento di successo per chi calca le asse del palcoscenico. Senza una buona spalla, manca Totò. Allora, Totò è naturalmente il Presidente del Consiglio, e lui la parte di Mario Castellano. Che però prende anche gli schiaffoni. E la parte della spalla tanto, è quella. La parte della spalla è quella, tu ricordi che a Capocomico che lo chiamavano... Diceva, vieni avanti, cretino. Ecco, questa è la parte della spalla della del spalla teatro. Del teatro. Non equivochiamo, non c'entra niente. Assolutamente Alfano, no. Assolutamente no. Però, allora, cari ascoltatori, noi oggi parleremo di figli. Perché, non perché vi spiegheremo come farli, perché molti hanno dimenticato. No, perché in radio si vedrebbe con difficoltà. Poi Oscar, noi due, va bene, siamo una coppia. Passerebbe molto. Però se senza essere notato, la nostra ruggine ormai sulla materia, per radio non ci vedono, quindi. No, parleremo di figli perché c'è questa cosa, insomma, della denatalità in Italia. Allora il ministro Lorenzin ha proposto raddoppiamo il bonus bebè, e per poi se uno fa due figli gli diamo ancora più soldi, però naturalmente il governo riserverà per soglie di reddito, per soglie di reddito verso il basso, verso l'alto, a destra, a sinistra, discrezionalmente. Tu hai l'occhio verde, forse non voti per me, non te lo do. Tu hai l'occhio marrone, allora forse voti per me, allora te lo do doppio. Una roba. No, vabbè. Sì, diciamo che però questa è una soluzione che è stata un po', è stata buttata là dal ministro Lorenzin e già un attimo accantonata sì. dal governo, a dire è una delle proposte. Sono le famose proposte fiammifero, durano lo spazio di un mattino. Effettivamente, però non è che uno fa figli per il bonus bebè, forse ci vorrebbe una strategia di welfare più completa, esatto. più complessa. Soprattutto più... la gente avrebbe bisogno di credere in qualcosa di stabile, più o meno universale, non in promesse elettorali. Perdonate, questa storia dei bonus è diventata una faccenda ridicola. No, ma attenzione anche perché avremo un demografo, Giancarlo Blangiardo, che dice che nel 2030 c'è il rischio che davvero, per esempio, per il numero di persone anziane e la mancanza di bambini nati, c'è il rischio anche di quasi di fallimento dell'INPS. E poi ci sarà il problema di molti nati stranieri, insomma, senza di loro non si reggono i conti. Certo, adesso, certo. Questo argomento che naturalmente fa insorgere tutti quelli che dicono fora lo straniero e a morte l'immigrato. Però detto questo, per l'equilibrio intergenerazionale dei conti, se non facciamo figli noi cari italiani, ne abbiamo bisogno di 300.000 in media di immigrati, 300.000 in media l'anno, per l'equilibrio dei conti. Sì. In tutto questo, Oscar è rimasto incuriosito da questa cosa. Non lo so, sta aspettando il secondo figlio, la bambina, quindi adesso pensa anche alla scuola. Come i bambini. Adesso pensa? No, nel senso, i bambini a scuola. Forse si vuole portare avanti di qualche anno. È sottile per figli. I bambini a scuola. No, il papà dei bambini più grandi che l'ha già affrontato questo problema. Andiamo al punto. Il problema è molto, molto serio di questi tempi ogni anno. Ecco. I genitori che non sanno dove parcheggiare i figli perché tra poco chiude la scuola. E che chiedono quindi... chiudetela un po' più tardi sta scuola. Esatto, almeno il 30 giugno per favore, perché altrimenti diventa posso capire che i papà dicessero la scuola italiana è poco seria perché è una delle più brevi nel mondo, sì. dovete stangarli e farli sudare di più a scuola. Invece no, la proposta è una specie di welfare travestito, cioè purché li teniate parcheggiati, ecco, cioè, da come la capisco io. Beh, insomma, la questione è che se uno si ritrova l'8 giugno, perché chiudono l'8 giugno le scuole, almeno a Milano, da tutto giugno, poi tutto luglio, vabbè, agosto magari è il mese, o luglio il mese in cui uno riesce ad andare in vacanza, si ritaglia un po' di tempo con i figli. Se no, altrimenti uno cosa fa? Cioè diventa un costo se non li parcheggi a scuola. Allora io ho trovato l'espediente, c'è sempre l'oratorio, e in questi casi devo dire santi oratori che fanno le settimane. Ah, c'erano le camere di contenzione? No. Smettila, li fanno giocare, li fanno divertire, li fanno stare insieme per pochissimi soldi. Questa è la cosa importante. A San Simpliciano, quello vicino a casa mia, gratis. Si paga, che ne so, 50 euro a settimana. Oh, gli vuoi dare da mangiare? Il contributo è volontario. Gli danno da mangiare, ma certo. Speculano, chissà che. Ma tu guarda, ti assicuro che alla fine il mio parroco, alla fine pubblica sempre il resoconto e sono in rosso praticamente. No, questo ci credo, la mia era una battutaccia, in realtà, tantissimi ci sono... E spero che non gli diano cibo per gatti. Però. No, dai, se non scherziamo. Scherzo. No, davvero, San Simpliciano, quella dove i bambini, la struttura è aperta, i campi da gioco. Ma così certo, ma poi dai un contributo perché lo dai, ma gli danno da mangiare. Certo. Infatti. Però effettivamente non è facile. Come tenere i figli se le scuole chiudono l'8 giugno? La scuola non è il servizio di babysitteraggio. Io direi che il problema è quello di dover prolungare quest'anno tra turni elettorali, turni ponti, controponti, eccetera eccetera. Abbiamo avuto un calendario ancora più breve del solito, ma la questione è che l'offerta formativa andrebbe articolata secondo un periodo più lungo. Questo sì. Guarda che su Twitter mi scrive Alex Corlazzoli, grande maestro oltre che amico, che dice va bene fino al 30 giugno, ma i condizionatori per i bambini, ma non è una battuta, nel senso, cioè l'aria condizionata per i bambini, è perché guarda che le scuole, come tutti gli uffici pubblici, Oscar sta riflettendo. No, sto riflettendo quando, cioè, io sono cresciuto senza condizionatore, lo capisco, non avevo neanche l'acqua calda la mattina, mi vergogno, non so cosa dirvi, sono sopravvissuto. Sopravvissuto, va bene. Alla nostra realtà dignitosa. Sei sistemato. No, però voglio dire, adesso il problema diventa i condizionatori. Allora. Bene. Allora andiamo a Donatella da Milano. Donatella, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Che dice? Volevo dire che sfondate un aperto, ho sentito le vostre conversazioni, assolutamente il problema dei figli, finita la scuola, l'oratorio, l'organizzazione del tempo. A figli, sperare di avere... Sì, a io ho un figlio che ho fatto 43 anni, sono una mamma molto attempata, è venuto benissimo, ho 55 anni e quindi ho 12 anni. Mm. Il problema è questo, come voi avete ben espresso, cioè dove li metti, cosa ne fai, o ai nonni, o hai un marito che sono, in pensione, che sono il vero welfare dello Stato italiano, welfare. I nonni. Lei ha il marito in pensione? Io ho il marito in pensione, ringraziando Dio, perché sennò appunto il lavoro ne risente, soprattutto delle donne, ovviamente. Quindi viva il bonus bebè, ma soprattutto viva i servizi sociali, signori, il passato che investisse negli asili, nell'assistenza, cioè con tutta la penuria di lavoro che c'è, ma apriamo sti asili nido, mettiamo ste ragazze o ragazzi a lavorare coi bambini, perché ci sono un sacco di donne che farebbero tanti figli, che si dedicano, sono mamme vogliose di partorire i figli, non lo fanno perché è un lusso. Non credo di dover dire io che per arrivare ne fai a 40 anni perché prima non hai lo stipendio per mantenere una famiglia, per avere una casa. Insomma, sono banalità, però questo è il senso. Quindi... No, per molte persone è effettivamente un lusso, purtroppo. E secondo me una società nella quale diventa un lusso fare dei figli è una società che secondo me senza futuro, come si vede da noi, rispetto al tasso di soluzione 2,1, i residenti italiani in Italia, cioè la stragrande maggioranza, sono 1,4 ed è così da più di 20 anni, quindi... Però Oscar, giustamente l'ascoltatrice dice va bene il bonus bebè, va tutto bene, cioè se uno dà un pochino più di soldi, però non può essere quella la soluzione, perché uno col bonus bebè ci campa quanto? Due mesi, tre mesi, un anno? In un esame comparato dei sistemi fiscali di tutto l'Occidente, nei modelli diversi, siamo il sistema fiscale più ostile alla natalità, cioè alle famiglie numerose. I modelli sono molto diversi, si può scegliere tra scelta individuale o scelta di contribuzione familiare per il fisco, come in America, dove la scelta è libera, il quoziente familiare che usa la Francia, oppure altissime detrazioni e deduzioni come in Germania. Noi non abbiamo niente di tutto questo e per questo, a parità di condizioni, a parità di reddito, noi chiediamo a chi ha dei figli tra il 30 e il 40% in più di ciascuno dei paesi che ho citato. Questo è il tema fondamentale, altro che il bonus 80 euro per 6 mesi e l'anno prossimo se non mi voti non te lo do. In quei paesi c'è un sistema fiscale universale per tutti, stabile nel tempo, che ti consente di pianificare con una fortissima agevolazione per i figli. Noi no. Nel paese più cattolico del mondo e ipocritamente più apparentemente dedito al culto della famiglia naturale, normale, eccetera, in realtà abbiamo costruito questo bel capolavoro fiscale. Allora, Mauro ci chiama da Treviso. Buongiorno, Mauro. Buongiorno a lei, Milan e Giannino. Niente, semplicemente io volevo dire che il mio pensiero è questo. Io credo che non ci sia più natalità in Italia per un semplice motivo, troppe tasse in generale su qualsiasi cosa. Avere un figlio, come diceva l'ascoltatrice precedente, è diventato un lusso che solo pochi possono permettersi, e credo che ci sia forse un po' più di natalità da parte degli stranieri perché sono più agevolati fiscalmente. Però guardi che statisticamente dopo 3-4 anni che stanno qui tendono anche loro a scendere, proprio perché anche per loro i costi sono elevati, quindi ha proprio due volte ragione secondo me, i dati dicono. Secondo me dopo 3-4 anni capiscono come gira in Italia, con questo stato ladro non si va da nessuna parte. L'abbraccio. Non c'è la possibilità di risalita. Oscar, assolutamente. Oscar ha un sussulto per Mauro da Treviso. Mauro, vengo gratis a lavorare da lei per qualche giorno per gratitudine. Va bene. Mauro la pensa così. Insomma, continuate a chiamarci, caro ascoltatore, all'800 24 00 24. Posso dire che però io mi metto un secondo i panni dei docenti, delle scuole di ordine e grado, e a vedere avanzare oggi sui giornali questa richiesta, secondo te come la prendono? Secondo me non troppo bene. I docenti, cioè che devono lavorare, devono perché poi lavorano, fanno gli scrutini, eccetera, ma dovrebbero tenere. Perché la richiesta è ci chiedono di tenere impegnati i figli, cioè di sorvegliarli. Credo che loro giustamente. Beh, i sindacati saranno già, no? No, i sindacati insorti. In cambio di 6 mesi di stipendio in più potrebbero accettare. Ma vengono pagati lo stesso, non è che. No, 6 mesi al posto di uno. Cioè, offerta è prendi uno, paga 6. Te li teniamo fino al 30 giugno, ma aumenti di 6 mensilità lo stipendio. Sai che adesso ricordiamo che nel pubblico impiego siamo alle prese da 5 anni senza aumentare. Contrattuali, ci sono solo 300 milioni per il rinnovo quando servirebbero 2 miliardi, quindi non disconosciamo il giusto problema al settore e non abbracciamo la disperazione, quella con cui Hillary Clinton, disperata per le prospettive, addirittura ha rimesso in campo il marito perché pensa che le stagiste e il marito sono così tante che possono sovvertire il risultato elettorale, perché questo è il motivo per cui le stagiste di Bill ci le divertiamo, stagiste. Cari amici. Vabbè. Franca ci chiama da Palermo, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, io dico subito questo per i bambini. Il problema è stato sempre sottovalutato e sappiamo tutti che appena chiudono le scuole le famiglie si sentono in lutto perché non hanno dove collocare questi bambini. Beh, però i bambini allora, sono felici, almeno quello. Le famiglie in lutto. Le famiglie in lutto perché non sanno cosa... Ecco. Ora, bambini a casa in questi nostri condomini dove si aggira ormai di tutto, suona, può suonare chiunque, ci possono essere pedofili, sappiamo tutto. Ecco, vabbè, il governo lo deve mettere questo come una priorità. Se non si fa, se non custodisce i nostri bambini nelle scuole, che si creino altri locali con altro personale, un personale sì, estivo. Io non mi riferisco solo agli insegnanti, che poi molti sono impegnati fino quasi a metà luglio con gli esami di maturità. Quindi come fanno? Se sono in un posto, non sono, non possono essere in un altro, anche se... non so se fossero disposti a, diciamo, a coprire. Però lei vorrebbe delle strutture statali dove c'è del personale, delle colonie, le vecchie colonie, le vecchie colonie. Le colonie, non la Abissinia, le colonie estive. No, cioè... le colonie estive. Le colonie fuori, nelle città, nei paesi. Sì, certo. In questo. Però, questa è una proposta. C'è da dire che, però, la struttura poi a cui ci si rivolge molto spesso i genitori, chi appunto gli oratori. Ci sono anche le colonie dei comuni a prezzi calmierati, cioè non è certo come mandarli in hotel a 5 stelle. Certo, c'è il welfare più antico del mondo, quello dei nonni, per chi ha la fortuna di poterli avere, che possono magari avere anche una casa in campagna, una casa al mare, eccetera. Però, insomma, Oscar, ci si deve un po' dar da fare così, un po' privatamente, e sempre pagando qualcosa, questo sì. Ah, la cosa su cui riflettevo... anche questo, segno dei tempi, ormai tutti invocano lo Stato, naturalmente a me, come è noto, questa cosa mi fa venire brividi e reazioni anche peggiori che non voglio evocare. Perché? Perché in testa tutti avete l'idea, tutti, no? Maggioranza, molti, hanno l'idea che se ne deve occupare lo Stato? Ecco, questa è la cosa che mi colpisce. Perché? Per quale ragione? Ma, cioè, siete inconsapevolmente nostalgici di una trovata fascista. Ha trovato fascista, regione fascista, che era tra le tante trovate molto apprezzate, c'è l'opera nazionale, maternità e infanzia, e i regimetri di queste cose, la sua impronta paternalista dello Stato, ci occupiamo dei vostri figli, li mandiamo di qua, li mandiamo di là, poi erano tanti motivi di consenso, che però non era l'Abissinia, no, appunto, non era l'Abissinia, però attenzione, ma dove sta scritto che se ne deve occupare lo Stato? Non è così, secondo me non è così, però insomma noi continuiamo ad affrontare l'argomento tra poco, dopo la pubblicità. Vedi, partiamo anche da questo esempio pratico. Ci scrive un ascoltatore: siamo due semplici impiegati a Monza, asilo nido dalle 9 alle 18.30, costo 670 euro al mese, scaricabile sul 730, il 20% di una mensilità. Questa è, vedi, l'ostilità dello Stato che bisognerebbe diminuire, non l'offerta diretta, ma che almeno non ostacoli così brutalmente con la sua rapina latronesca, indegna, fiscale... anche sui figli delle famiglie, certo. Perché questo è il cioè punto. 670 euro al mese, ogni mese, quindi 9 mesi, immagino 10 mesi, magari anche 11 mesi, si può scaricare 130 euro, cioè il 20% della mensilità. Capisci. E siamo due impiegati, va bene. Quindi secondo me, con un po' di ritirata fiscale, ecco che si crea il modo per cui le famiglie, come è più giusto, ci pensino loro piuttosto che ci pensi lo Stato. Sì, no? Se un asilo nido riesce a costare anche 670, ma se riuscisse a scaricare magari il 20% di ogni mensilità, per esempio, già sarebbe una buona appunto. Cosa. Certo, questo poi impatta sui conti dello Stato. Ma e no, quindi... dai, insomma, Stato, ma che impatta? Ma non è capace, aumenta solo le sue spese. Va bene, dai. Deve tagliare le spese, se no impatta, cioè da un giorno all'altro. E invece no? Le devono tagliare solo le famiglie, questa è l'austerità all'italiana, solo per i contribuenti c'è stata l'austerità. Lo Stato le spese le ha aumentate, noi le tasse le abbiamo aumentate, quindi l'austerità è tutta made in family. Tra poco ne parliamo. State ascoltando un programma offerto da SailPost, la nuova posta italiana. Scopri di più su sailpost.it. Siamo qui, caro Oscar. Sì, eccoci qui. Vedi che questo tema ha appassionato i nostri ascoltatori. I prezzi, certo. Allora, perché... la retta del nido, 670 euro scaricabile, solo una mensilità al 20%, ragazzi, è impressionante. Ragazzi. Certo, poi chi ci scrive 5 euro alla mensa delle elementari dei bambini. Vabbè, però non sono paragonabili. Vogliamo dargli da mangiare ai bambini 5 euro? Sì, certo, può essere magari calmierato un po', però... è un pasto. A me è capitato di fare trasmissioni su, in alcune città, esattamente sui prezzi a cui sono bandite le gare e aggiudicate per il catering scolastico, scoprendo che rispetto ai prezzi di aggiudicazione quelli chiesti alle famiglie erano significativamente più alti. Più alti. Sì, certo, già. Perché poi questo impatta sulla qualità ovviamente del cibo. Però anche chi ci scrive, per esempio, latte in polvere, non dico la marca, ma comunque 800 grammi in Italia, 18,89 euro, in Slovenia 13,90 euro, quindi anche il costo proprio di pannolini, latte in polvere, insomma... tanti motivi per cui non si fanno tanti bambini in Italia. Potremmo chiedere agli sloveni di prendere i nostri. Esatto, ci chiedono il ricatto. No, vogliamo salutare il professor Giancarlo Blangiardo, che insegna demografia alla Bicocca, Università Bicocca di Milano. Buongiorno, professore. Buongiorno a tutti voi. Vogliamo salutare anche Riccarda Zezza, che è un'imprenditrice, fondatrice di un programma La maternità è un master. Buongiorno. Buongiorno e benvenuta. Fa parte anche di un think tank, il think tank Volta di Giuliano D'Empoli. Allora, professor Blangiardo, perché siccome diciamo sempre non si fanno bambini in Italia, non si fanno più bambini, ma ci può dare due numeri da demografo per capire qual è la portata di questa frase, non si fanno più bambini? Allora, la portata è in un numero 488.000, che è il dato del 2015, ed è il dato più basso mai registrato in Italia dal 1861. Cioè, non eravamo mai scesi in basso così, neppure durante la prima e la seconda guerra mondiale. Quindi uno ha un'idea di che cosa è successo e cosa sta capitando a questo paese dal punto di vista della natalità. E qual è il saldo negativo rispetto ai morti? Nella... saldo negativo è 155.000, quindi più morti che nati per 155.000 unità. E poi non si facevano così pochi bambini come dal 1861, ma è impressionante. I motivi ovviamente sono tanti. Quando naturalmente il numero complessivo degli abitanti era enormemente inferiore a quello attuale. Esatto, i motivi allora erano ancora di più, cioè in Italia praticamente da quando esiste l'Italia, da quando c'è l'unità nazionale, non è mai successo di aver ottenuto un valore così basso, peraltro come appunto dicevate voi, con 61 milioni di abitanti. I motivi ovviamente sono tanti, professore, per cui non si vanno più bambini. Questo cosa significherà nella proiezione futura? Cioè, c'è un anno nel quale tutto questo arriverà a una situazione di emergenza, non solo di parole scritte sui giornali, ma veramente di emergenza pratica? Beh, allora è chiaro che se l'ingresso è 500.000 scarso di persone ogni anno e poi via via l'invecchiamento della popolazione, poi porterà ovviamente il numero delle morti a crescere, quindi questo 155.000 negativo più morti che nati è destinato a crescere nel tempo. Certo, uno può dire l'immigrazione dovrebbe in qualche modo rimettere a posto le cose, però abbiamo visto che anche l'immigrazione peraltro in questi anni ha frenato. Naturalmente il futuro, lo scenario che abbiamo davanti è di un paese con un numero di abitanti probabilmente ridotto se non interviene l'immigrazione e decisamente molto invecchiato, con tutti i problemi, pensioni, sanità eccetera, cose che ci siamo detti in molte altre occasioni, che stanno lì all'orizzonte e ci aspettano semplicemente dietro l'angolo. Perché caro Oscar, tutto questo impatterà sì poi sui conti pubblici, se invecchiamo, quindi la salute, però, costi per la salute, costi per le pensioni. Questo è un classico la salute, problema perché... che conferma, no, il teorema di Arrow, dell'impossibilità di scelte logiche quando c'è la politica. La politica guarda a breve, questi sono problemi che si riequilibrano con decisioni a lungo. Allora, le decisioni a lungo, cioè classicamente di quelle di chi non vota oggi, la politica tende... ovviamente costitutivamente a non prenderle, e purtroppo la demografia, come l'energia, cioè le cose che hanno impatto sulle generazioni a venire, dovrebbero secondo me costituire un argomento a parte di come si decide in politica. Non so se il demografo la pensa così. Blangiardo, è interessante questa analisi, che ne pensa? Allora, io ricordo un demografo che diceva, un famoso demografo francese, che diceva la demografia si vendica di chi la dimentica, perché produce, come diceva Giannino giustamente, dei risultati a medio-lungo termine, e al politico non gliene importa niente perché le elezioni sono domani, però qui bisogna entrare nella logica dell'investimento, cioè bisogna investire in questo benedetto capitale umano, perché sennò poi alla fine ne pagheremo le conseguenze, o ne pagheranno le conseguenze. E poi bisogna anche modificare una sorta di clima culturale, cioè non è tanto i 150, 200, 300 euro che cambiano la vita di nessuno, però bisogna attivare una serie di iniziative coordinate. No, esiste un piano, nessuno lo sa, ma il piano nazionale è stato approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2012 e sta nel cassetto, lì con dentro tante belle cose di cui avete parlato anche voi prima, che però non vengono attivate, un po' perché mancano i soldi, un po' perché non si ha forse voglia di mettere mano a qualche cambiamento. Vediamo. Per esempio, Riccardo Azzezza, questa cosa del bonus raddoppiato, anche Blangiardo dice forse si è discusso anche qua. Non può essere l'unica soluzione, certamente l'unica non può essere, può essere una soluzione, ma che cosa è allo studio? Cosa bisognerebbe fare davvero per invogliare, incentivare a fare più figli? Bisogna prendere atto che c'è un contrasto, un conflitto costante tra maternità e lavoro. Cioè, la natalità è collegata comunque al mondo femminile e le donne che hanno figli non riescono a lavorare. O per il solo fatto di fare figli spesso non trovano un lavoro, vengono pagate meno. E ricordiamo però che nelle statistiche internazionali i paesi con la più alta partecipazione delle donne al mercato del lavoro sono quelli con il più alto tasso di istruzione demografico, non come pensano molti maschi italiani, al contrario, se le lasciamo a casa fanno più figli, no? Assolutamente. Ormai le donne sono nel mondo del lavoro, ma la natalità non c'è, nel senso che la natalità è considerata un'anomalia nel mondo del lavoro. Il congedo di maternità viene considerato un periodo quasi di malattia, mentre noi abbiamo visto che sviluppa competenze che poi il mondo del lavoro va a cercare altrove, quando ce le ha nelle mamme e nei padri. Certo. Quindi c'è questo conflitto costante, e se una donna deve scegliere tra avere un lavoro e quindi avere un reddito, avere un'autonomia, partecipare o avere dei figli, chiaramente rimanda la scelta di avere dei figli. E questo è uno dei motivi per cui poi non si fanno figli. Quindi congedi di maternità più flessibili, vissuti in maniera migliore, questa potrebbe essere già una soluzione. Vanno ripensati completamente. Come? Intanto il congedo di maternità riguarda solo la nascita del figlio, quindi è una questione di salute della madre e del bambino circoscritta alla nascita. Tutto il resto è congedo parentale nel resto d'Europa, che vuol dire che si può usare in maniera più flessibile, certo, ferma restando la lunghezza e il diritto di averlo, si può concordare col datore di lavoro quando e come spenderlo, si può condividere col compagno e diventa un congedo di cura e non più legato semplicemente alla nascita. Beh, questa è una ottima soluzione. E poi come conciliare il fatto lavoro ed essere madre? Cioè, con proposte pratiche, lei cosa suggerisce? E la parola conciliazione andrebbe abolita. Non c'è nessun litigio tra madre, maternità e lavoro, anzi c'è una grande alleanza, perché le madri hanno moltissimo da portare nel mondo del lavoro. Non è più una questione di numero di ore lavorate, ma di numero di idee, di conoscenza, quindi essere madre e avere anche altro nella vita non fa male, anzi fa bene. Quindi in realtà non c'è nessuna conciliazione, c'è proprio da ribaltare completamente il paradigma e parlare appunto della maternità come di un master che ti dà delle competenze e delle capacità che puoi portare al lavoro. Su questo voglio semplicemente dire una cosa: siccome non è ipotizzabile, basta un qualunque meccanismo di proiezione attuariale sulla finanza pubblica per chiedere che davvero la finanza pubblica possa realizzare tutti gli asili nido necessari in Italia, che sono il gap, alcune regioni hanno gap spaventosi ancora nell'ordine dell'80% meno di quello che sarebbe necessario, allora bisogna potenziare molto la trattativa nelle aziende, soprattutto quelle medio-grandi, per esempio Sole 24 Ore, che non è proprio una piccola azienda, nel welfare aziendale detassato, mettere iniziative per la famiglia come i nidi aziendali e così via. Ti dirò, Alessandro, che quando anni fa qui portammo la ministrice delegata, il presidente di Confindustria, sperava che al Sole 24 Ore questa roba entrasse in questa azienda. Non c'è entrata perché la ministrice delegata diceva: se ne parlo in consiglio sono tutti maschi, mi prendono per matta. Questo è fatto vero, che riguarda questa azienda. Quindi è interessante, Zezza, forse più donne e meno uomini nei ruoli decisionali, anche questa può essere una chiave. Più donne che si sentano autorizzate a portare la loro dimensione femminile, perché poi se le donne che arrivano lì vogliono fare gli uomini non abbiamo nessun valore aggiunto, tanto vale tenersi gli uomini. Anche questo è vero. Sentite, ci chiama Giuseppe da Milano, sentiamo che vuole dirci. Giuseppe, buongiorno. Nino e Milan, allora io volevo portare la mia esperienza. Sì. Vivo a Milano, impiegato mia moglie part time al 50%, 4 figli. Si fanno i salti mortali, perché con 4 figli devi cambiare la macchina, perché la macchina a 5 posti non va più bene. La casa la devi cambiare, per cui fai il mutuo. Le vacanze non trovi mai offerte, perché le offerte sono per papà, mamma e due figli. Insomma, fai tanti salti mortali, ma è possibile fare quattro figli, tre figli, è possibile. Logicamente si rinuncia a certe cose, si rinunciano alle vacanze belle, ma si va in un modesto campeggio, si rinuncia alla macchina bella, si compra una macchina usata, ecco, non si compra l'ultimo modello. Però non è tanto un problema economico, secondo me, in Italia, è più un problema anche culturale. Perché si fanno sempre meno figli per una questione forse anche di comodo, di non voler fare sacrifici, di non voler rinunciare a certe cose. E poi di conseguenza lo Stato si adegua. Ma guardi Giuseppe, lei pone un argomento, effettivamente Oscar, guardi che la sua una testimonianza secondo me è preziosa, perché in tutto questo abbiamo e stiamo solo facendo questioni di calcoli economici, cioè, però Giuseppe ci riporta anche a una scelta... Come dire, anche legata a dire, ma insomma, in fondo un pizzico di sana follia nel fare un figlio, o due figli, o tre figli, o quattro figli, ma poi, ci vuole, che non vuol dire non pensare al futuro, io non essere incosciente. Se sia sana follia, perché io ho capito da Giuseppe che ci vuole anche una dedizione, cioè per far quadrare le difficoltà, quattro. Solo significa... che se dice se uno vuole andare nell'hotel a 5 stelle... Però significa, tanto per essere chiaro Alessandro, rinunciare all'idea che va per la maggiore dei nostri coetanei che credono di poter vivere come se avessero 20 anni, che se non c'hai fine settimana con le vacanze allora ti senti di non essere vivo e ti deprimi e te la scarichi sul compagno. Certo, ma Giuseppe fa proprio questo discorso. Avere un'idea di una vita serena, però molto centrale. Professor Blangiardo, lei ovviamente parla di numeri, di dati, non so se questo aspetto psicologico rientra e su questo vuol fare un commento. Allora, assolutamente, io darei ad Alessandro e a quelli come lui, gli si deve una gratificazione da parte della società, anziché guardarli con sospetto quando poi li vedi in giro, c'è quella lì, la famiglia numerosa, ecco, ne siamo arrivati al punto che la famiglia numerosa è vista con sospetto, la famiglia numerosa è l'investimento in quelli che pagheranno le nostre pensioni, chiaro, se non ci fossero gli Alessandro e quelli come lui, i conti non quadrerebbero ancora meno rispetto a quanto già non quadrano oggi, e quindi bisogna attivare nel paese un clima culturale di attenzione e di gratitudine nei riguardi di chi fa questo tipo di scelta. Gratitudine vuol dire anche magari insomma qualche sgravio fiscale, ma qualche certo, aiuto in proporzione alla numerosità, no, deve essere quello. Automaticamente si pensa a quattro figli, integralista, deve essere un integralista religioso, e invece uno che si è un po' buttato, ha vissuto la vita e vive la vita come e forse andrebbe vissuta l'idea un che po' di più. Trasferirla e coltivarla è una delle cose più fondamentali per cui ha senso stare su questo pianeta. Allora noi ringraziamo il professor Giancarlo Blangiardo e Riccardo Zezza davvero per essere stati con noi, discussione che magari riprenderemo perché il tema è molto vivo, come si vede. Perché riguarda tutti gli italiani, insomma, milioni e milioni di italiani, e solidarietà a quelli che ieri non ce l'hanno fatta a comunicare l'autodichiarazione per essere sentati dall'orrenda rapina del canone in bolletta della RAI. Chiamateci, telefonate, però se, si se volete la proroga giorno, dovete chiedere la proroga. A domani.